44. Il liberatore. Giorgio Shelby aveva scritto a sua madre due parole appena, indicando il giorno in cui ella poteva aspettarlo a casa. Il coraggio gli era mancato di annunziare la morte del suo vecchio amico. Varie volte si era provato a farlo, ma soffocato dall'angoscia, aveva sempre lacerato la lettera e, asciugando le lacrime, era uscito come per cercare un sollievo. Quel giorno tutta la casa Shelby era in un lieto trambusto. Si attendeva l'arrivo del giovane padrone. La signora Shelby stava seduta nel suo leggiadro salotto, dove un bel fuoco temperava l'aria troppo rigida di una delle ultime sere d'autunno. La tavola brillava d'argenterie di cristalli e la vecchia Chloe, nostra antica conoscente, attendeva ad aggiustare ogni cosa. Vestita di un abito nuovo di tela indiana, di un bianco e pulito grembiule, di un alto e ben inamidato turbante e col nero e lucente suo viso tutto sfavillante di soddisfazione, ella presiedeva quei preparativi con esattezza scrupolosa e solo per avere un pretesto di parlare un poco alla padrona. «Ora tutto sarà accomodato a suo genio», ella diceva. «E adesso mettiamo la sua posata qui, dove egli ha piacere di sedersi vicino al fuoco». Il padroncino preferì sempre il posto più caldo. «Oh, ma perché Sally non ha messo il brico per il tè più bello, quello che il padroncino comprò per la signora Natale? Vado subito a prenderlo. La signora ha avuto notizie del padroncino?» «Sì, Clo. Una sola riga, quanto basta per dirmi che sarebbe qui stasera potendo, ecco tutto». «E del mio povero Tom non ne parla?» chiese Clo, che si attardava intorno alle tazze del tè. «No, Clo. Giorgio non mi scrive nulla di lui e gli dice che ci racconterà ogni cosa quando sarà giunto». «Oh, il padroncino è proprio fatto così, più disposto a parlare che a scrivere. Osservai in lui questa particolarità e per me davvero non ho mai capito come facciano alcuni a scrivere quelle loro lettere lunghe, lunghe. Ci vuole tanto tempo e tanta fatica a scrivere». La signora Shelby sorrise. «Credo che il mio povero vecchio non riconoscerà più i ragazzi», continuò Chloe. «E la piccina, signore Dio, ora è una donnina, è buona anche garbata. E lei in casa adesso e sta badando alle focaccette. Le ho fatte giusto come al mio povero uomo piacevano tanto, come quelle che gli diedi il giorno in cui me lo condussero via. Dio ci benedica, quanto soffersi quel giorno». A questa allusione la signora Shelby sospirò e si sentì un peso sul cuore. Ella era un po' inquieta fino da quando le era pervenuta la lettera di suo figlio e pareva che quello strano silenzio fosse di cattivo augurio per tutti. «La signora ha i biglietti di banca?» domandò Chloe ansiosamente. «Sì, Chloe. Oh, mi preme mostrare al mio vecchio quegli stessi biglietti che il pasticcere mi ha dati. Egli mi disse, Chloe, vorrei tenervi qui ancora». E io gli risposi, «Grazie, padrone. Resterei volentieri se il mio vecchio non tornasse a casa. E poi la signora non può oramai fare senza di me». Ecco precisamente la risposta che gli diedi. Era un bravo uomo il padrone Jones. Il mio Tom non ravviserà Polly», continuò Clone. «Sono certa. Sono già 5 anni che me lo portarono via. Polly era piccina, piccina a quel tempo. Ne poteva reggersi. Mi ricordo la paura del mio vecchio perché la cadeva sempre quando voleva mettersi a camminare». Qui si intese il rumore di una carrozza. «Il padroncino!» esclamò Chloe correndo alla finestra. La signora Shelby si slanciò alla porta d'ingresso e suo figlio la strinse amorosamente tra le braccia. La zia Chloe acuiva ansiosamente gli occhi in quell'oscurità. «Oh, povera zia Chloe!» disse Giorgio avvicinandolesi commosso e prendendo tra le sue la mano nera incallita di lei. «Io avrei dato volentieri quanto posseggo per poterlo ricondurre con me, ma egli andò in una patria migliore». La signora Shelby mandò un grido, ma Chloe non ebbe né una parola né un gemito. Poi tutti mossero verso la sala da pranzo. Il denaro di cui Chloe andava tanto superba era là, sulla tavola. «Tenete», disse Chloe raccogliendo i biglietti e porgendoli alla sua padrona con mano tremante. «Non voglio rivederli mai più, né sentirne mai più parlare. È proprio come io me l'ero immaginato, venduto e assassinato in quelle maledette piantagioni». Chloe si voltò dopo queste parole e uscì a occhi asciutti dalla stanza. La signora Shelby le tenne dietro quietamente, le prese una mano, la fece sedere e le si assise accanto. «Mia povera e buona Chloe», disse ella. Chloe appoggiò il capo sulla spalla della sua padrona e, singhiozzando forte, rispose: «Ah, signora, scusatemi, il mio cuore è spezzato, non dico altro». «Lo so, Lo so, rispose dolorosamente la signora Shelby, le cui lacrime cadevano in abbondanza. Lo so, né io posso guarirlo. Gesù solo lo può. Egli è quello che guarisce i cuori spezzati e ne rimargina col tempo ogni ferita. Vi furono alcuni istanti di silenzio. Tutti piangevano. Finalmente, Giorgio, sedutosi anch'egli vicino alla desolata, le prese la mano, le narrò con semplicità commovente la santa e gloriosa morte di suo marito e le ripeté il suo ultimo messaggio d'amore. Un mese circa era passato da che queste cose erano avvenute, quando una mattina tutti gli schiavi di Shelby erano radunati nel vestibolo della casa per udire alcune poche parole del loro giovane padrone. Con gran maraviglia di tutti, egli apparve fra loro tenendo nelle mani un fascio di carte e consegnò a ciascuno di essi una lettera di emancipazione, dopo che egli l'ebbe letta ad alta voce, fra le lacrime, i singhiozzi e le acclamazioni generali. Molti di loro, nondimeno, si accalcarono intorno a lui pregandolo vivamente di non licenziarli, e gli stendevano intanto con l'aria supplichevole l'atto di emancipazione. Noi non desideriamo di essere più liberi di quel che siamo, nulla ci manca, non vogliamo abbandonare la casa, il padroncino, la padrona e tutto il resto. Miei buoni amici, disse Giorgio, quando poté ottenere da loro un po' di silenzio, voi non mi abbandonerete. La piantagione richiede l'opera di molte mani, come per l'addietro. Noi abbiamo in casa gli stessi bisogni che per l'innanzi, ma voi ora siete uomini e donne libere. Io vi pagherò per il vostro lavoro quel prezzo che si converrà fra noi. Il vantaggio sarà che qualora io mi trovi indebitato o muoia, cose che possono accadere, voi non sarete più né sequestrati né venduti. Io voglio proseguire la coltivazione dei miei poderi e insegnarvi a fare buon uso dei diritti che io vi do nell'emanciparvi. La qualcosa forse durerete un po' di fatica ad apprendere. Spero che vi ingegnerete ad essere buoni e operosi e prego iddio che vi serbi fedeli e sempre volenterosi nella via del bene. Ora, amici miei, ringraziate il Signore del beneficio della libertà. Un vecchio nero d'aspetto patriarcale che era incanutito nella piantagione e aveva perduto la vista, si rizzò in piedi e stendendo verso il cielo le sue mani tremanti disse: Rendiamo grazie. Tutti allora caddero in ginocchio, né mai una preghiera, fosse anche con accompagnamento di organo, di squille di cannoni, salì più commovente e festosa che la prece di quegli onesti e semplici cuori. Una parola ancora, disse Giorgio per troncare le congratulazioni della folla. Voi tutti vi ricordate del nostro buon vecchio zio Tom? Giorgio fece allora una breve narrazione della sua morte e ridisse le ultime parole che gli aveva pronunciate. Quindi soggiunse: Sopra la sua tomba, amici miei, giurai davanti a Dio di non possedere più un solo schiavo quando mi fosse possibile di emanciparli al fine di non esporre più alcuno ad essere separato dalla sua famiglia e dai suoi amici e a morire come lui in una remota piantagione. E perciò, quando godrete della vostra libertà, ricordatevi che siete debitori a quell'anima buona e ricambiatelo con la vostra tenera affezione per sua moglie e per i suoi figliuoli. Pensate alla vostra emancipazione tutte le volte che rivedrete la capanna dello zio Tom. Ella vi rammemori il bell'esempio da lui lasciatovi e vi sproni ad essere al pari di lui onesti e fedeli cristiani. Conclusione. Spesso giunsero all'autrice lettere da varie parti che le domandavano se questo racconto fosse vero o no. A queste domande ella darà una risposta generale. I singoli incidenti che lo compongono sono della più grande autenticità. Molti di essi avvennero sotto gli stessi suoi occhi o sotto quelli dei suoi amici. Ella o gli amici suoi studiarono pure in natura quasi tutti i caratteri delineati nel racconto e molti dei discorsi sono parola per parola come ella li udì e come da altri le furono riferiti. Elisa, quale ne è dipinto il fisico e il morale, è un ritratto dal vero. L'incorruttibile fedeltà, la pietà e l'onoratezza di Tom hanno più di un modello che l'autrice conobbe. Alcuni degli incidenti più tragici e più romanzeschi, alcuni dei più terribili, sono ugualmente copie della realtà. Quello di una madre che attraversò il fiume Ohio sopra il ghiaccio è un fatto notissimo. La storia della vecchia Prue ebbe a testimone oculare un fratello dell'autrice che era in una gran casa di commercio di New Orleans. Dalla stessa sorgente ella trasse il carattere del piantatore Legree, del quale suo fratello stesso aveva visitato la piantagione in un suo giro, e così ne scriveva: Egli mi fece tastare il suo pugno, che somigliava a un'incudine o a una spranga di ferro, dicendomi che si era incallito a forza di battere neri. Quando partì dalla sua casa, diedi un lungo sospiro, come se fossi scampato dalla caverna di un orco. La tragica storia di Tom si è anch'essa più volte rinnovata, e nel nostro paese vivono i testimoni che possono attestarlo. Bisogna rammentarsi che negli stati del Sud la legge non ammette la testimonianza di un nero contro un bianco, e ognuno comprenderà come orrori simili a quelli narrati possano rinnovarsi dovunque esista un uomo nel cui animo l'ira prevalga all'interesse, e uno schiavo che abbia coraggio o principi abbastanza fermi da resistergli. Nulla vi è che protegga la vita dello schiavo se non il carattere del padrone. Fatti orrendi da cui l'animo rifugge vengono di quando in quando a cognizione del pubblico, e i commenti che si odono fare spesso muovono anche più a sdegno che i fatti medesimi. Solo si dice, può darsi che tali cose talvolta accadano, ma ciò non prova che accadano solitamente. Se le leggi della Nuova Inghilterra consentissero a un padrone di torturare fino a farlo morire un principiante di mestiere senza che la legge lo punisse, si vedrebbe ciò con la stessa calma? Si direbbe allora, questi casi sono rari e ciò non prova che accadano solitamente. Questa ingiustizia è inerente al sistema della schiavitù, ne è il fondamento stesso. La vendita pubblica e scandalosa delle belle mulatte e quarterone divenne notoria per gli incidenti che tennero dietro alla cattura dello schooner La Perla. Togliamo il seguente brano da un discorso dell'onorevole Orazio Mann, uno degli avvocati che parlarono intorno al soggetto. Fra le 66 persone che nel 1848 tentarono di fuggire dal distretto di Columbia sullo schooner La Perla, i cui ufficiali io difesi davanti ai tribunali, erano molte belle ragazze, dotate di quelle particolari attrattive di forme e di lineamenti che sono tenute in gran pregio dai conoscitori. Una di queste era Elisabetta Russell. Ella cadde in potere di un mercante di schiavi, il quale deliberò di recarla sul mercato di New Orleans. Quanti videro quella sventurata ne furono profondamente commossi. Offersero per il suo riscatto $800, e fra coloro che facevano la generosa offerta, taluni davano quasi tutto ciò che possedevano, ma quel demonio di trafficante fu inesorabile. Ella dovette partire per New Orleans, ma a metà del viaggio Dio ebbe pietà di lei e permise che la morisse. L'accompagnavano due giovinette chiamate Edmondson. Mentre stavano per partire alla volta dello stesso mercato, la loro sorella maggiore si recò a supplicare l'abominevole trafficante che ne era il proprietario che volesse per amor di Dio risparmiare quelle povere vittime. Costui ne rise e le rispose che le avrebbero bei mobili e vesti eleganti. Sì, rispose quella, ciò sta bene per la vita presente, ma che sarà mai di loro nell'altra? Oh, e le furono mandate a New Orleans, ma furono di poi riscattate a prezzo enorme. Non è dunque evidente che la storia di Emmeline e di Cassie non è immaginaria? Per amor di verità, dobbiamo dire altresì che il nobile e generoso carattere attribuito a St. Clair non è senza esempio, ne sia prova il fatto seguente. Pochi anni or sono, un giovane del Sud si trovava a Cincinnati con uno schiavo suo prediletto che fin dall'infanzia lo serviva. Questi colse il momento opportuno per assicurare la propria libertà con la fuga e si pose sotto la protezione di un quacchero ben conosciuto per altri affari simili. Il suo padrone arse di sdegno, lo aveva sempre trattato con tanta indulgenza e confidava tanto nell'affetto di lui che credeva egli fosse stato indotto a ciò da istigazioni perverse. Si recò furente dal quacchero, ma nobile e leale com'era, presto si lasciò disarmare dai ragionamenti dell'uomo di pace e gli promise al quacchero che se il suo schiavo gli dicesse sul viso che bramava la libertà, subito lo affrancherebbe. Fu disposto un incontro e il giovane padrone chiese a Nathan se aveva mai avuto a lagnarsi di lui. No, padrone, rispose il nero, voi foste sempre buono verso di me. E perché dunque vuoi abbandonarmi? Il padrone può morire, e in tal caso che avverrebbe di me? Io preferisco la libertà. Dopo aver riflettuto un istante, il giovane replicò: Nathan, credo che se fossi in te la penserei allo stesso modo. Va, tu sei libero. Fece stendere immediatamente l'atto di emancipazione, consegnò al quacchero una somma da spendersi per i primi bisogni dello schiavo e lasciò a quest'ultimo una lettera di consigli piena di affetto e di bontà. L'autrice ebbe per alcun tempo quella lettera nelle mani. Ella spera di aver reso giustizia alla nobiltà di sentimenti, all'animo generoso e pio che spesso dimostrano gli abitanti del Sud. Tali ottime qualità ci vietano di disperare interamente della specie umana, ma di grazia, ella lo chiede a ognuno che conosca il mondo. Tali caratteri si incontrano di frequente. Per molti anni l'autrice si astenne da ogni lettura o discorso sulla schiavitù, considerando questo soggetto come troppo doloroso a discutersi e sperando che il progresso dei lumi e della civiltà ne avrebbe certamente affrettato l'abolizione. Ma dopo l'atto legislativo del 1850, allorché ella vide con grande stupore e costernazione un popolo cristiano e civile inculcare la denunzia degli schiavi fuggiti come un dovere imposto a tutti i buoni cittadini cristiani, quando ella intese che uomini probi, compassionevoli e stimabili negli stati liberi del Nord discutevano e deliberavano quali fossero i doveri dell'uomo in siffatte circostanze, pensò: questi uomini, questi bianchi, questi cristiani non sanno che cosa sia la schiavitù. Se lo sapessero non potrebbero mai essere questo, non potrebbe essere questo un argomento di discussione. Allora le nacque il desiderio di rappresentarla sotto una forma drammatica ed ella vi si provò con sincere intenzioni, dipingendone ora il lato più favorevole e ora il più tristo. Quanto al lato più favorevole, forse l'intento non le fallì, ma quanto all'altro, chi potrebbe dire quante atrocità, quante abominazioni siano chiuse, tuttavia, nell'ombra del mistero? Voi generosi abitanti del paese meridionale, voi che nella vostra virtù, nei vostri magnanimi sentimenti e nella vostra lealtà di operare siete più degni di ammirazione per i maggiori ostacoli incontrati, voi, chiama testimone l'autrice, non avete nel segreto delle anime vostre, nei vostri intimi colloqui, sentito e detto che vi sono in quest'empio sistema dolori e vergogne che superano di gran lunga quanto è tratteggiato, o si poteva tratteggiare in questo libro? E come potrebbe essere altrimenti? L'uomo è creatura tale che gli si possa affidare senza pericolo un potere assoluto? E il sistema della schiavitù, con l'interdire allo schiavo ogni diritto legale di fare testimonianza, non rende il possessore di lui un despota al quale unica legge è il suo arbitrio? Non vede ognuno chiaramente ciò che deve risultare dall'applicazione di questo sistema? Se vi è, come noi ammettiamo, una pubblica opinione fra voi uomini d'onore, di giustizia, di umanità, non vi è un'altra sorta di pubblica opinione fra i rotti al vizio, i brutali e i crudeli? E non possono i rotti al vizio, i brutali, i crudeli possedere, a tenore della legge, sì gran numero di schiavi come i migliori e i più illibati fra voi? In qual parte del mondo gli uomini onorevoli, giusti, di cuore nobile e generoso formano la maggioranza? Il traffico dei neri è considerato ora dalle leggi americane come una pirateria, ma un traffico dei neri, non meno sistematico di quello che un tempo si faceva sulle coste d'Africa, è l'inevitabile conseguenza della schiavitù americana e potrebbero mai annoverarsi tutti gli orrori di essa. L'autrice ha dato solamente un pallido riflesso, una debole pittura delle angosce e della disperazione che in quest'ora stessa straziano migliaia di cuori. Pongono sottosopra migliaia di famiglie e riducono una razza conculcata e sensitiva alla demenza e a ogni doloroso estremo. Molti fra noi videro madri che da questo traffico ignominioso furono spinte a trucidare i propri figli e che poi nella morte cercarono un rifugio contro miserie temute da esse più che la morte stessa. Nulla di tragico può essere scritto, né detto, né concepito che pareggi la tremenda realtà delle scene quotidiane e delle azioni di ogni istante nel nostro paese, all'ombra della legge americana, all'ombra della croce di Cristo. E ora, uomini e donne d'America, è questa una cosa da prendersi con indifferenza, da essere scusata o passata sotto silenzio? E voi, possidenti del Massachusetts, del Nuovo Hampshire, del Vermont e del Connecticut, che che leggete questo libro al chiarore del vostro fuoco nella stagione invernale, voi generosi armatori e marinai del Maine, è questa una cosa che possiate favorire e incoraggiare? Nobili e generosi uomini di New York, agricoltori del fertilissimo e allegro stato dell'Ohio, e voi abitatori dei prati immensi degli stati di Occidente, rispondete: è cosa che possiate proteggere e favorire? E voi, madri d'America, dite, è questa una cosa che si possa difendere, approvare o passare sotto silenzio? Mi risponderete forse che in ciò non hanno colpa alcuna gli abitanti degli stati liberi del Nord e che nulla vi possono fare? Ah, volesse Dio che ciò fosse vero, ma non lo è. I cittadini degli stati liberi hanno difeso e incoraggiato tale sistema e vi parteciparono. Ed essi sono più colpevoli innanzi a Dio di quelli del paese meridionale, perché non hanno la scusa dell'educazione e delle usanze. Se le madri degli stati liberi avessero avuto in passato i sentimenti che avrebbero dovuto avere, i figli degli stati liberi non avrebbero mai voluto essere detentori e padroni proverbialmente crudeli di schiavi. I figli degli stati liberi non si sarebbero mai resi conniventi nell'estensione della schiavitù sul nostro suolo nazionale. I figli degli stati liberi non farebbero commercio, come fanno, di anime e di corpi umani, accettandoli quali equivalenti di denaro nei loro affari mercantili. Vi sono moltitudini di schiavi posseduti temporaneamente e rivenduti da negozianti di città settentrionali, e dovranno la colpa e la vergogna della schiavitù ricadere soltanto sugli stati meridionali? Gli uomini del Nord, le madri del Nord, i cristiani del Nord hanno qualche cosa di più da fare che sfogare l'ira in maldicenze contro i loro fratelli del Sud. Hanno da levarsi contro il male che è fra loro. Ma vi è di più. Sulle terre dei nostri stati liberi giungono di continuo poveri fuggiaschi, residui di famiglie disperse, uomini e donne scampati per miracolo della provvidenza agli orrori della schiavitù, deboli di intelligenza e in molti casi moralmente infermi e corrotti da un sistema che confonde tutti i principi del cristianesimo e della morale. Essi vengono a cercarvi l'educazione, l'istruzione. Che fate voi per quegli sventurati? Non deve ogni cristiano d'America alla razza africana qualche sforzo per riparare i mali che la nazione americana fece ad essi? Le porte delle nostre chiese e delle nostre scuole saranno loro chiuse. Gli stati si leveranno per cacciarli via. La Chiesa di Cristo ascolterà in silenzio gli oltraggi che sono rovesciati sopra di loro, respingerà le mani supplichevoli che si tendono verso di lei e incoraggerà col proprio silenzio la crudeltà che vorrebbe rifiutare loro il nostro suolo. Se così deve essere, il nostro paese avrà ben ragione di tremare, pensando che le sorti dei popoli stanno nelle mani di colui che è sommamente pietoso e amorevole. Voi dite: qui non abbiamo bisogno di loro, se ne vadano in Africa. Che la provvidenza di Dio abbia disposto per essi un rifugio in Africa è per vero un fatto grande e notevole, ma non è questa una ragione per cui la Chiesa di Cristo neghi a quella razza un aiuto che è suo dovere accordarle. Popolando la Liberia di una razza ignorante, inesperta, semibarbara, testé sfuggita dalle catene della schiavitù, si prolungherebbe per secoli il periodo di lotte e di difficoltà inseparabili da ogni nuova impresa al suo inizio. La Chiesa del Nord riceva con lo Spirito di Cristo quegli sventurati, mettendoli a parte dei benefici di una società cristiana e repubblicana, fino a che saranno pervenuti a un certo grado di maturità intellettuale e morale, e allora somministri loro il modo di tragittarsi a quelle sponde dove potranno mettere in opera gli ammaestramenti ricevuti in America, come ha fatto Giorgio Harris. Alcuni abitanti del Nord hanno tenuto questo metodo e avvenne che si videro taluni per la dietro schiavi che presto si acquistarono beni, istruzioni e buon nome, si svilupparono ingegni tenuto conto delle circostanze veramente meravigliosi e in quanto a tratti di bontà, di probità e di squisitezza di sentimenti e a sforzi eroici e sacrifici a pro dei fratelli e degli amici tuttora schiavi. Essi toccarono un grado tale che, considerate le tristi influenze sotto cui nacquero, è da stupirne non poco. L'autrice dimorò per parecchi anni sul confine degli stati nei quali la schiavitù esiste ed ebbe più volte occasione di osservare uomini che si erano liberati dal loro giogo. Alcuni stettero nella sua casa come servitori e, in mancanza di scuole pubbliche, ella talvolta li fece istruire in scuole private a sue spese e coi propri figliuoli. La testimonianza di missionari che accolgono i fuggitivi nel Canada coincide con l'esperienza da lei fatta e sono oltremodo confortevoli le sue deduzioni a favore della capacità di quella razza. Il primo desiderio dello schiavo emancipato è generalmente quello di ottenere un'educazione. Non c'è nulla che egli non sia pronto a dare o a fare a ciò che i suoi figli siano istruiti. Da quanto l'autrice osservò e dalle testimonianze degli istitutori di essi risulta che hanno un'intelligenza notevole e una gran facilità di apprendere. I buoni effetti dell'insegnamento dato nelle scuole istituite a pro di loro in Cincinnati da uomini generosi confermano interamente questa opinione. L'autrice Harriet Beecher Stowe pubblica ancora la seguente nota sotto l'autorità del professor Stowe, allora nel seminario di Lane, nell'Ohio, intorno ad alcuni schiavi fatti liberi e residenti in Cincinnati. Questa nota dimostra assai bene l'attitudine della razza quando anche non abbia particolari aiuti e incoraggiamenti. Non daremo che le iniziali dei nomi. B. Ebanista. Vive in quella città da 20 anni, possiede 10.000 dollari frutto delle sue fatiche, è membro della Chiesa Anabattista. C. Nero del tutto, trasportato dall'Africa, venduto a New Orleans, è da 15 anni in libertà, si riscattò con 600 dollari, coltivatore, possiede alcune terre nell'Indiana, è presbiteriano e ha un peculio di circa 20.000 dollari acquistati con le proprie fatiche. K. Nero del tutto, possiede 30.000 dollari di 40 anni circa, libero da 6 anni, pagò 1.800 dollari per riscattare la sua famiglia. Membro della Chiesa Anabattista, ricevette dal suo padrone un lascito che pose a frutto e accrebbe. G. Nero del tutto, mercante di carbone, ha circa 30 anni, possiede 1.000 dollari, si riscattò due volte, essendo rimasto derubato la prima volta di 1.600 dollari. Quanto possiede è il frutto delle sue fatiche e in gran parte mentre era schiavo. Egli era solito pagare un tanto al suo padrone e lavorava per conto proprio. È un bell'uomo di modi signorili. V. Nero per tre quarti, barbiere e domestico, nato nel Kentucky, 19 anni di libertà, riscattò sé e la sua famiglia per 3.000 dollari. Possiede 2.000 dollari, frutto della propria industria. È diacono della Chiesa Anabattista. D. Nero per tre quarti, lavandaio, nato nel Kentucky, libero da 9 anni, riscattò sé e la sua famiglia per 1.500 dollari. È morto di recente, in età di 60 anni, possedeva 6.000 dollari. Il professor Stowe dice: tutti costoro, ad eccezione di G, io li conobbi personalmente per vari anni. L'autrice si ricorda di una donna attempata di colore che serviva come lavandaia nella sua casa paterna. La figlia di costei si maritò con uno schiavo. Era una giovane di rara operosità e destrezza e con la sua industria, con i suoi sforzi, con la sua più perseverante abnegazione, le riuscì di mettere da parte per il riscatto di suo marito 900 dollari che depositava poco alla volta nelle mani del suo padrone. Mancava ancora un centinaio di dollari per il prezzo stabilito quando egli morì. Il denaro non le fu mai restituito. A questi fatti sarebbe facile aggiungerne altri infiniti che attestano dell'abnegazione, dell'energia, dell'onestà e della pazienza che lo schiavo spiega nello stato di libertà. Si consideri che quegli uomini hanno dovuto acquistarsi un'agiatezza relativa e una posizione sociale a forza di lavorare e nelle circostanze più svantaggiose. L'uomo di colore, secondo le leggi dell'Ohio, non può dare il voto nelle elezioni politiche. E ancora pochi anni addietro gli si rifiutava il diritto di testimoniare davanti alla giustizia contro un bianco. Negli esempi che abbiamo citati si incontrano soltanto nello stato dell'Ohio, in tutti gli stati dell'Unione vediamo uomini testé fuggiti dalle catene della schiavitù, i quali fecero con mirabile energia la loro propria educazione e ottennero nella società un posto onorevole. Pennington fra gli ecclesiastici, Douglas e Ward fra i pubblicisti, ne sono ben noti esempi. Se questa razza, benché perseguitata, poté trionfare di tanti patimenti, che cosa non farebbe se la Chiesa cristiana si adoperasse verso di lei secondo il vero spirito di Cristo? Questo è un secolo in cui le nazioni tremano convulsamente, una forza segreta scuote il mondo come in un terremoto. L'America è al sicuro. Ogni nazione che porta nel suo seno un'iniquità grande e impunita ha in ciò gli elementi di questa estrema convulsione. Che ha dunque una tale influenza misteriosa, la quale costringe tutte le nazioni a gemiti inesprimibili per la libertà e l'eguaglianza. Ed egli farà in polvere l'oppressore. Non sono queste forse parole tremende per una nazione che porta in seno una sì flagrante ingiustizia? Cristiani, ogni volta che dite venga il regno tuo, potete dimenticare che i profeti in un terribile ravvicinamento associano il giorno della vendetta al giorno della redenzione? Un giorno di grazia c'è ancora serbato. Sì, il nord e il sud sono colpevoli dinanzi a Dio e la Chiesa cristiana avrà un grave conto da rendere. Non già concertandosi per proteggere l'ingiustizia e la crudeltà e accumulando un comune capitale di peccato potrà salvarsi questa nostra unione, ma soltanto in virtù del pentimento, della giustizia, della misericordia, giacché non è più forte la legge fisica per cui la pietra si sprofonda nell'oceano, della legge eterna e più forte, in virtù della quale la crudeltà e l'ingiustizia tireranno sul capo delle nazioni l'ira divina. Fine.